Tony, ma rimane una cosa, se noi facciamo questa canzone dove c'è questa parolina non saremo tacciati di volgarità come sempre. Ma quando mai, caro Giovan Battista? Oggi la parola minchia è citata anche sulle pagine gialle e sul vocabolario Zingarelli. E ti dico di più, che quest'anno ha spopolato anche al Festival di Sanremo. Allora facciamo. E come finisce la seconda? 10 comandi il Signore, un giorno a Mosè ci avvifilò. Insegna l'uomo a campare e fallo a mestiere, a mestiere! Rispetta il padre e la madre, il figlio e il nipote, o nanno. Rispetta moglie e parenti, e o caine ziere. Settimo non a rubare, perché non è onesto. Cu futte futte, però Dio perdona quasi lo stesso. Si può dire. Te disse fidate, è scritto uno Zingarelli. Io leggevo pure il nostro diario, allora orico. E vai! Minchia quanto predetto, un'esclamazione troppo volgare. Ma se pensa che c'è pane scritto, un colpo di minchia ci può anche stare. Con questi politici politicanti che sono stati sempre al potere, l'abbiamo creduto come dei santi e oggi paghiamo col nostro sedere. Le valigette con tanti miliardi girava agli uffici di quei truffaldini. L'abbiamo capito, ma è troppo tardi che si fecero case, ville e piscine. E noi paghiamo 203 tasse con inutili razze. Minchia quanto petita, arrivano sempre scadenze pari. Mettiamoci pure l'aumento d'affitto, telefono, acqua, luce, cambiale. La spesa al mercato la facciamo ogni tanto, due fili di pasta, chi fa solo all'inglese. Ma i prezzi sono alti, scappiamo ruscanto e la carne la mangiamo una volta ogni mese. Non solo, ma adesso è vietato pure ammalarti. Se uno ha bisogno e va giù in farmacia, il medico assente non può visitarti e senza ricetta vuole menzana via. E noi paghiamo 200 tasse. Ui, nota del razze! Minchia che so il tipo detto, si fanno le leggi per come vogliono loro, ma ciò non è giusto, ma dove sta scritto? Siamo senza una lira e senza lavoro. Pensando a sti porci vigliacchi e maiali, vedendoli sempre processi in TV, sappiamo che la legge non è tutto uguale, la solita farsa non se ne può più. Li vede apparire tranquille e beate, potessero muorire tutti schiacciate, facessimo fiesta e meno triguenne, perché è veramente una grande vergogna. E noi paghiamo 203 tasse o inutili razze. Minchia che so il tipo detto, i consigli dei vecchi vanno sempre ascoltati. I nostri padri l'avevano detto, con questo governo sarà inconsumato. Paghiamo di tutto, paghiamo contributi, la tassa andrà a casa e sulla salute. Aumenta pure la tassa sui rifiuti, però scala la pensione quando sono coi note. Pensando al futuro che abbiamo davanti, i corpi di minchia diventano tanti. Ma tu che mi dici, Giovanni? Forse è troppo pesante. Ma quale pesante, Tone? Vai avanti che l'avemo belle punce tante. Minchia che so il tipo detto, ma adesso basta di contestare. Tutto il discorso non va per detto, è tutto sbagliato, tutto da rifare. Ma un bambino giocando in strada in un muro ha su scritto: papà, minchia petetto.